Adesso faccio l'appello. Savona? Presente. Chiusano? Presente. Giacobetti? Potrei andare un no, momento. Adesso, nell'intervallo. Quando eravamo piccini, la nostra maestrina, con la più gran disciplina, tutti faceva filar. Lei ci metteva in riga gridando: fate attenzione, Yorsi. Adesso marcerete cantando questa canzone. Un, due, passo. Battiam, battiam le mani, arriva il direttore. Battiam, battiam le mani, all'uomo di valor. Gettiamo tulipani e mattolin di fiori. Cantiamo tutti in coro, evviva, evviva, ed una coppa d'oro doniamo al direttore. Pronto, trr, pronto, trr, pronto, trr, pronto, trr, pronto, trr, pronto, trr, pronto, trr, pronto. E finalmente a 20 anni dicemmo è finita. Ora ci porta la vita, giorni di felicità. Voilà! Ma presto tutti quanti dovemmo constatare che per andare avanti sempre si deve cantare. Il direttore! Battiam, battiam le mani, arriva il direttore. Battiam, battiam le mani, all'uomo di valor. Gettiamo tulipani e mattolin di fiori. Cantiamo tutti in coro, evviva, evviva, ed una coppa d'oro doniamo al direttore. Ma quando ci lamentiamo, sinceri non siamo. Forse in segreto sogniamo la parte del direttore. Tutti vorremmo in fondo dal mondo farci applaudir, e la canzone in coro ci piacerebbe sentir. All'arbitro noi diciamo: arriva il direttor. E dal metropolitano: arriva il direttor. Al maestro Ferrare diciamo: arriva il direttor. Ognuno di voi domani potrebbe cantare: battiam, battiam le mani, arriva, arriva.